ma non si accorge di cambiare. Vive coi paraocchi, con l'ansia di soffrire. La gente inevitabilmente attende sul suo ramo e restare tranquilli, ma ci siamo noi che disturbiamo. In questa terra dove croci figgono chi sogna, tra queste case dove non ti riconosco più sogna. In questa terra dove non c'è molto da lasciare, in questo manicomio dove tutto è andato a male. Proibito, non si può più far festa. Proibito e basta. Proibito è la legge universale. È proibito soprattutto pensare. Proibito, non si può più far festa. Proibito e basta. Proibito è la legge universale. È proibito soprattutto pensare. Questo manico.